Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto da Francesco Galante, eccoci nel consueto spazio che dedichiamo ai consumatori. Proprio per questo chiamo a rispondere alle domande il nostro caro amico e compagno di viaggio ormai da tanti anni, il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Qualche tempo fa avevamo parlato di caldaie, di manutenzione, di cose di questo genere, e io ti avevo detto dovremmo parlare anche delle nuove regole che ci sono e che scadranno il 31 dicembre 2016, che riguardano gli impianti centralizzati dei condomini. E qua c'è una novità. Sì Francesco, allora rilacciandomi a qualche precedente intervista fatta proprio con te, dove si parlava comunque di libretti di caldaie, libretti di condizionamento, insomma di nuove normative che scadranno il 31 dicembre 2015, di cui molti dei nostri ascoltatori avranno già avuto la mala sorpresa di dover adeguare e quindi chiaramente dover avere un maggiore sborso rispetto ai precedenti libretti. Oggi stiamo a commentare una nuova normativa che comunque scadrà il 31 dicembre del 2016 e che riguarda sempre gli impianti di riscaldamento e in particolar modo, come hai detto te, parliamo di impianti centralizzati e di valvole termostatiche. Ecco, che cos'è la valvola termostatica? Prima di spiegare nel dettaglio cos'è, voglio fare una piccola premessa proprio perché in questi giorni abbiamo molte richieste di informazioni da parte anche di amministratori condominiali, ma di inquilini che ci chiedono cos'è questa novità e perché viene chiesto di adeguare l'impianto e soprattutto quindi di sborsare soldi. Cosa significa in pratica? Gli impianti centralizzati sappiamo che non vengono regolarizzati da nessuno, ma ogni condominio ha un periodo dell'anno e del mese in cui vengono attivati e un periodo preciso in cui vengono spenti e tutti sono abituati a stare con le finestre aperte, avere 23 gradi dentro casa e pagare un po' quello che tutti quanti sono abituati a pagare. Da entro 31 dicembre 2016 invece ciascun condomino dovrà adeguare il proprio alloggio come in modo che ogni termosifone avrà una valvola termostatica alla quale potrà decidere autonomamente sia che temperatura tenere dentro casa e sia se escludere o meno un ambiente rispetto a quello che oggi invece non può fare, nella speranza sicuramente, ma nel fatto concreto di risparmiare e pagare anche meno nelle future bollette. Diciamo che con questo sistema bisognerà mettere questa benedetta valvola su ogni termosifone del nostro appartamento e poi questa stessa valvola, oltre a comandare a seconda di come stabiliremo noi l'apertura e la chiusura del termosifone, farà anche una conta delle calorie che vengono consumate, giusto? Certamente, dove c'è un impianto centralizzato non è pensabile poter mettere un contatore, pertanto verrà messo un contacalorie che non è altro che uno strumento che andrà a verificare quanto hai consumato in base al calore richiesto dall'impianto e che permetterà all'inquilino quindi non avere più 23 gradi dentro casa e spalancare le finestre o riscaldare tutta la casa perché non ha flessibilità sulla gestione dell'impianto, ma andando da giro direttamente sui caloriferi deciderà che temperatura avere dentro casa e al limite escludere quelle stanze che adesso non può fare da un riscaldamento dell'alloggio e quindi permetterà al regime di risparmiare parecchi soldini. Certamente però tutto questo ha un costo ed è un costo che secondo un'indagine che ha fatto l'Adico, proprio delle persone che si sono rivolte, degli installatori che andranno ad adempiere questo lavoro, vale tra gli 80 e i 120 euro a valvola. Ecco, 80-120 euro a valvola, quindi a termosifone che uno ha in casa e ovviamente bisogna metterli su tutti i termosifoni. Bisogna assolutamente metterli su tutti, bisogna farlo come detto entro il prossimo anno, è consigliabile farlo non certamente durante la stagione invernale in cui l'impianto è acceso e noi come Adico abbiamo fatto una piccola indagine dove abbiamo visto che ad oggi, almeno nella provincia di Venezia, appena un condomino su tre è adeguato alla norma. Certo è che stiamo cominciando a guardare con sospetto quelli che sono un po' i preventivi proposti perché certamente, al di là di quella che è una finalità dell'iniziativa molto interessante e utile che farà risparmiare, ma che prevede un costo iniziale di cui molte storgono il naso, perché come detto riguarda ogni singolo termosifone, quindi c'è chi arriverà a spendere insomma anche oltre 1000 euro, e non è certamente un periodo in cui questi soldini si tirano fuori così facilmente. Certo, diciamo che magari negli anni poi si recupera la spesa, perché se sei un attimo attento e capace riesci a risparmiare qualcosa sulle spese del gas condominiali o del, insomma, del carburante che serve a far andare il riscaldamento del palazzo, ma anche sul costo di installazione conviene farsi fare più di qualche preventivo, perché poi in sé la valvola non è che costa così tanto, è forse più un discorso di manodopera, di installazione e quant'altro. Ma sicuramente sì, poi amplificando il ragionamento, il fatto è che siamo anche stanchi di subire sempre queste norme e poi lasciare al cittadino l'onere di doversi organizzare, perché parliamo delle, come oggi è obbligatorio dopo un periodo iniziale fare una revisione d'auto ogni 2 anni, come oggi è obbligatorio fare i libretti, il bollino, adesso il nuovo libretto di condizionamento, dobbiamo dotare non solo la caldaia ma gli impianti di climatizzazione e le stufe a pellet. Insomma, ci sono queste continue norme che, anche se hanno queste importanti finalità, però alla fine fanno sempre spendere soldi, quindi bisogna capire a che punto c'è la reale necessità e convenienza rispetto a quello che è un costo che poi solamente negli anni andrà a permettere di risparmiare qualcosina. E ricordiamo che molti stanno anche approfittando per proporre la sostituzione delle caldaie quando questa non è necessaria. Certo, quindi attenzione, occhio, e eventualmente se dovete cambiare la caldaia condominiale magari fatevi fare anche un preventivo per capire se è il caso che ognuno abbia il suo riscaldamento a parte direttamente, che anche quella è una considerazione che va fatta, perché quando si parla di grandi caldaie si parla di soldini anche in quantità, devo dire. Certamente, il ragionamento è chiaro e purtroppo il consumatore deve passare il fatto che avrà un costo iniziale da sostenere. Ci speriamo anche che gli amministratori riescano a proporre diversi preventivi, ma purtroppo non ci sarà molto scampo da questo. Va bene, grazie quindi per averci raccontato anche questa vicenda con cui dovremmo fare i conti. Interessiamoci e chiediamo lumi ancora all'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it, per avere ulteriori dettagli. Grazie al presidente Carlo Garofolini, che ritroveremo lunedì prossimo. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.